il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. L'ONU ha decretato il 2016 anno internazionale dei legumi. Poveri di grassi e ricchi di fibre, sono infatti una fonte di proteine vegetali importanti per il corpo e particolarmente sostenibili dal punto di vista ambientale. La loro coltivazione necessita infatti di poche risorse naturali per crescere e si possono coltivare quasi ovunque. Questo ne fa un alimento essenziale per la sopravvivenza delle popolazioni in molti luoghi del mondo. Ora siamo a maggio e questo è il mese in cui regna discusso un particolare legume. Stiamo parlando dei piselli. Molte sono le varietà coltivate anche nel Veneto, che ne ha fatto l'elemento centrale di uno dei cibi regionali per eccellenza. Accanto alla polenta e al baccalà, infatti, tra le specialità tipiche non si possono non considerare anche i risi e i bisi, il riso con i piselli appunto. Numerose sono anche le feste e le sagre dedicate ai piselli in ogni parte della regione. Ad esempio Colognola ai Colli, dove è in corso la sagra dei bisi, che si concluderà lunedì 23 maggio. A Baone, dove la festa dei bisi si svolge da venerdì 20 a domenica 29 maggio, mentre la festa dei bisi a Peseggia di Scorzè va dal 27 maggio al 6 giugno. Sono tutte occasioni per gustare e acquistare questo prezioso legume, tanto prezioso che il professor Claudio Frasson, medico nutrizionista dell'Università di Padova, li ha messi al centro di una dieta che sta studiando. Proprio il professor Frasson è il nostro ospite di oggi. Dottor Frasson, perché i piselli sono così importanti in una dieta equilibrata? Perché hanno una composizione originale, elettiva, e molto diversa dagli altri legumi e da tutti gli altri ortaggi. Contengono piccole quantità d'acqua, contengono quantità di carboidrati ma non con bassi quantità di amido e soprattutto pochi grassi, soprattutto saturi, che sono quelli che normalmente vengono, come dire, anche demonizzati. Ma la loro peculiarità fondamentale è il fatto che contengono un altissimo elevato quantità di proteine nobili che, associate per esempio ad alcuni cereali possono contribuire all'apporto di quantità proteiche equivalenti ad una proteina animale, e quindi abbiamo insomma un ottimo apporto di tipo proteico. Successivamente possiamo anche avere un ottimo apporto di tipo vitaminico. I piselli sono ricchissimi di vitamina C, sono ricchi di vitamina PP, sono ricchi di vitamina E e anche di vitamine del complesso B, eccetto la B12. Oltretutto sono molto molto ricchi di minerali, tra i quali spiccano fondamentalmente il rame, lo zinco, il magnesio e il fosforo. Quindi l'associazione, per esempio, del nostro piatto tipico veneto, risi e bisi, è perfetta? È assolutamente perfetta per quel che riguarda la quantità di proteine assunte, perché vengono fondamentalmente associati aminoacidi essenziali che completano il nostro pasto giornaliero. Oltremodo vengono associati anche nutrienti essenziali che sono fondamentali per il nostro apporto, quindi possiamo dire che il piatto è un piatto unico e adeguato, con un apporto nutrizionale, macro e micronutrizionale, elevatissimo. Quali altre associazioni potrebbero essere fatte a parte quella con il riso? Ma fondamentalmente con tutti i cereali, oltre che con il riso, con la pasta, anche con il farro, anche con l'orzo, anche con il miglio, vanno molto bene. Meno bene andrebbero associazioni con, per esempio, cibi carnei o comunque cibi animali, perché avremo un apporto di proteine troppo elevato e quindi metteremo sotto stress sia il nostro fegato che i nostri reni. E quindi, piatti con bisi associati a proteine animali vanno bene, però in quantitativi bassi, perché ovviamente ci stressano il nostro metabolismo. Insomma. Ecco, in questo periodo li possiamo mangiare freschi, addirittura raccoglierli nel campo, comprarli con la loro buccia e tutto, il baccello, e quindi averli freschissimi. Però è anche il periodo in cui magari poi la gente pensa per l'inverno, per le zuppe invernali, quindi le conserva, le mette in congelatore o le cucina, le mette via già cucinati. Quanto si perde con questi tipi di procedimenti e qual è il modo migliore per conservarli magari per l'autunno o per l'inverno? Ma le tipologie di conservazione sono ottime, le migliori sono la surgelazione, che mantiene fondamentalmente tutte le caratteristiche dei cibi, mentre quelle, per esempio la conservazione in cibi in scatola, siccome vengono precotti, a volte non si sa bene come vengano precotti e quindi comunque perdono alcune loro proprietà. Direi che il surgelato oppure il pisello secco, però attenzione perché il pisello secco è disidratato e quindi aumenta la quantità di calorie e quindi gli apporti calorici. Leggevo che è anche un alimento adatto a chi ha delle intolleranze, per esempio i celiaci, quindi è un alimento che non dà di frequente adito a problemi di questo genere. Sì, certamente, è un alimento privo di glutine e quindi è adattissimo ai celiaci, è adattissimo a diete per pazienti con ipercolesterolemia di tutti i generi e anche per pazienti con altre patologie gastrointestinali. Attenzione un attimo perché hanno qualche piccolo diciamo, difetto, come per esempio la flatulenza che viene prodotta attraverso la fermentazione dei batteri, di alcuni diciamo, zuccheri che sono presenti nei piselli e che ovviamente si può comunque rimediare mettendoli a mollo per un po' di tempo o comunque per esempio associandoli ad altri cibi. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Sarà diverso, con te io posso dire, domani faccio un figlio, mi piace da morire, con te posso versare le lacrime d'amore, con te posso svegliarmi nella notte del Signore. Nel cuore, se tanto mi dà tanto, vai forte da impazzire, tesoro, non sai quanto. Con te sarò felice, e se gli altri non mi piace, correggerò il mio verbo, fin quando gli altri tace. Lasciatelo dire, se il bene può far male, ti amo da morire. Con te posso cadere e piangere per ore, con te posso svegliarmi e dirti ciao amore. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di piselli e lo stiamo facendo con il professor Claudio Frasson, medico, chirurgo e nutrizionista dell'Università di Padova. Lasciando per un attimo da parte i piselli, lei è un esperto promotore di questa dieta, che è la prima dieta micronutrizionale, la dieta Minu. Che cos'è esattamente questa dieta e che cos'ha di diverso rispetto ad altre diete che sono conosciute? Ma fondamentalmente la dieta Minu, che ho il piacere e la felicità di presentarvi e di essere comunque il primo promotore, è una dieta fondamentalmente equilibrata, basata sulla dieta mediterranea, che però va ad ottimizzare tutti quei nutrienti di cui non si parla normalmente, vengono chiamati micronutrienti, soprattutto minerali, ma anche vitamine, anche gli aminoacidi, anche omega 3 e omega 6, versus praticamente la dose giornaliera raccomandata, tale per cui si possa avere un apporto corretto di tutti i nutrienti di cui si ha necessità nel nostro corpo, e quindi si ottimizza il metabolismo e si ripristina fondamentalmente un benessere psicofisico importante. Quindi è una dieta attraverso la quale si possono mangiare vari tipi di alimenti e solo combinati in qualche modo in maniera corretta? Sì, esattamente, combinati in maniera corretta e soprattutto tantissimi alimenti, anzi quasi tutti, anzi la mia teoria è quella che non esistono alimenti che facciano fondamentalmente male, a meno che non contengano dei tossici, cioè non ci siano dei problemi di sicurezza alimentare, e quindi associando molti alimenti, utilizzando tantissimi alimenti in piccole quantità con certe dosi, si può avere l'apporto di nutrienti essenziali corretto e quindi una dieta corretta. Dove si può avere informazioni di questa dieta? Beh, a me, tramite me, il mio sito che adesso lo svilupperemo, e comunque io insegno all'Università di Padova, sono un professore a contratto, ho un master di qualità e sicurezza degli alimenti. Grazie. Grazie a voi. Abbiamo detto che risi e bisi è il piatto per eccellenza con cui si accompagnano i piselli, ma anche un piatto completo perché sia risotto, sia il riso, sia i piselli. Chiediamo ad uno chef come preparare un ottimo risi e bisi. Serafino Baù dell'Enoteca San Daniele di Torreglia. Allora, per preparare i risi e bisi è complicato, allo stesso momento semplice, perché comunque bisogna partire sempre da una base di carne, che potrebbe essere del prosciutto crudo, della pancetta. Noi oggi abbiamo preparato con la pancetta, si fa rosolare bene la pancetta, si aggiunge, dopo che è bella rosolata la pancetta, si aggiunge la cipolla, si fa appassire, non troppo bruciare. Dopodiché si aggiungono i piselli, si aggiunge un po' di acqua, perché bisogna cuocere i piselli assieme con la pancetta, e là per una quarantina di minuti i piselli devono essere belli cotti. Dopodiché si aggiunge il riso. Importante, non è un risotto, è una minestra, quindi va liquida. Quindi deve essere non come un risotto all'onda, ma un po' più brodoso. Grazie. Lasciamo ora i piselli e andiamo a concludere la trasmissione con alcune notizie. Banda larga, oltre 43 milioni di euro per portarla nelle aree rurali del Veneto. Lo prevede l'accordo di programma quadro sottoscritto dalla Regione Veneto e dal Ministero dello Sviluppo Economico per lo sviluppo della banda ultralarga in Italia. Gli interventi per le aree rurali si collocano all'interno di un più ampio investimento che in Veneto potrà contare su 399 milioni di euro. Gli interventi infrastrutturali saranno realizzati tra il 2016 e il 2020 e andranno a sopperire alla carenza di connettività veloce nelle aree a cosiddetto fallimento di mercato, vale a dire quelle in cui non c'è interesse economico degli operatori della comunicazione a intervenire. Alta Padovana. Coldiretti Padova esprime preoccupazione per il futuro delle falde nell'Alta Padovana e, per bocca del presidente provinciale Federico Miotto, lancia un appello alla responsabilità. L'acqua del Brenta è la principale risorsa dell'Alta Padovana, ricorda Miotto, ed è un bene prezioso per migliaia di aziende agricole e per l'intero territorio. Si sta parlando oggi di nuovi pozzi, di ulteriori scavazioni in una zona che ha già pagato un alto tributo in termini di risorsa idrica. Gli allevamenti da latte e da carne, i prati stabili della destra Brenta, le colture orticole non possono vivere senza disponibilità di acqua. L'Alta Padovana, conclude Miotto, senza acqua rischia di trasformarsi in un deserto. Vanno messi in atto da subito invece le opere di ricarica delle falde per non continuare ad impoverire questo indispensabile giacimento d'acqua. Unendoci a questo appello, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it.